Beh, è un altro dei personaggi sicuramente da annoverare dentro queste ambientazioni decisamente ambientali, e se per ambientale appunto questa sera la definiamo come detta ambiente, quindi un ambientale che chiaramente va a cercare una sorta di meandro, se non addirittura di abisso sonoro, di tuffo insomma, dentro un suono chiaramente annerito, però con quella fascinazione appunto per questo altrove, questo tentativo insomma di sconfinare, di creare anche nelle musiche assolutamente inedite appunto una sovrapposizione, come dicevamo prima, tra i Throbbing Gristle dei primi album, ma forse anche di tutti i Throbbing Gristle, con Discrete Music di Ino, quindi un viaggio insomma anche piuttosto pericoloso dentro un suono che non può che essere appunto allucinante, non può che portare insomma decisamente su una alterità non soltanto sonora, ma se immaginiamo queste musiche anche legate a molta cinematografia. L'altra volta abbiamo inserito Lastmord, che è stato chiamato tante volte per il cinema, anche con risultati alterni, non per forza eccellenti, oppure se pensiamo a Graham Revell di SP Cape, Sodale tante volte appunto con Lastmord, anch'egli dentro molti progetti anche mainstream di sonorità cinematografiche, ma molte insomma di queste atmosfere vengono utilizzate di fatto per sonorizzare non soltanto poi chiaramente film horror, che insomma va da sé, insomma queste musiche portano quell'immaginario, ma anche momenti installativi piuttosto così evocativi di appunto mondi diversi, mondi anche tante volte lontanissimi, no? E citando insomma il buon Franco Nazionale, Franco Battiato chiaramente, con il suo mondo lontanissimo, che anche lui in una sorta di qual misura è tornato sui suoi passi, insomma anche quelli se vogliamo cupi, ma questa è una faccenda diversa, sono icchi del passato, insomma, tanto per autocitarci dentro 451 frammenti sonori. Paul Schultz, che abbiamo ascoltato, viene appunto da quelle formazioni che stavano cambiando anche proprio il verbo industrial, storica formazione appunto legata a quegli esperimenti, Loafin' Hands, gruppo anch'egli di culto, seppur semisconosciuti o misconosciuti, da recuperare, certo materiale poi tante volte che nelle miriadi di ristampe invece non viene ristampato, e quindi come dire, il nostro piccolo invitiamo questo tipo di ristampe. Loafin' Hands furono un gruppo collagistico, industrial, ma legato anche appunto a sonorità che stavano mutando e che stavano portando insomma a quello che questa sera, ma non so, di fatto non solo noi, tra l'altro lo prendiamo anche a prestito da un progetto di Fred Fritt con i Quemori, Death Ambient appunto. Paul Schultz l'abbiamo ascoltato da Seven Greens, da una performance live, ce l'abbiamo ancora in sottofondo, tra Londra e Tokyo. Paul Schultz poi negli anni 90 fu uno dei personaggi di maggior spicco dentro questa, se vogliamo definirla tale, corrente musicale isolazionista, con il suo New Maps of Hell. Già, insomma, il titolo dice tutto su questi viaggi dentro le oscurità e appunto luoghi sonori sinistri, ma non per questo non affascinanti, anzi forse ancora di più, senza scadere insomma in un didascalismo iconografia e sonorità, insomma, dark, che persero, insomma, buona parte, insomma, della loro forza, e che diventarono una sorta di qual misura musiche, insomma, chiuse in loro stesse, ecco, e tutta la faccenda, insomma, stiamo trattando questa sera, anzi, e, se per molti versi fu anche chiamata dark ambient, e forse lo è ancora chiamata, e poi per molti altri versi stiamo trovando invece le complessità di questo suono, e quindi anche non è facile etichettabilità per questa anche voluta così riluttanza rispetto a categorie sonore, ma forse si può parlare più di un'attitudine, di una, appunto, creazione di ambienti, come quello di Kevin Drum, anche egli proveniente dall'improvvisazione radicale, come Frit, come certo che Gieino. Kevin Drum, che partendo, insomma, da dei progetti larghi di Van der Mark, quindi di un jazzista veramente aperto alle le nuove sonorità, e tante le collaborazioni negli anni 90, soprattutto, appunto, dentro il mondo del jazz evoluto in un suono improvvisativo e vicino al noise, tant'è che negli anni zero appunto, ho citato il suo collaboratore, comunque tant'è che negli anni zero, appunto, Kevin Drum sarà protagonista dentro la nuova scena noise a suo nome, e dentro varie progettualità o collaborazioni, proprio come preannunciavo, quella con Prurient, disco veramente clamoroso, questo All Our Guests in the House of Lord, con questo senso della decadenza espresso già da una copertina che ritrae un antico tempio, e questo suono sinistro che attraversa anche nei momenti più potenti noise, questo splendido lavoro, appunto, di Kevin Drum insieme a Prurient. Troviamo, appunto, un suono che si è ulteriormente trasformato, se con Paul Schutz abbiamo trovato un live del 2003, Dent Ambient, insomma, si sono protratti fino al 2007, speriamo, insomma, che continuino la loro proceduralità, neanche a dirlo, insomma, quanto sia attivo Kejenino, tra l'altro, insomma, nelle prossime settimane sicuramente sentiremo il suo progetto, vabbè, e senza dirlo, insomma, stupefacente, insieme a Stefano Malley dei Sanò, che anche gli si divide in mille progetti, sempre con questa capacità sonora veramente molto creativa, che Knowledge and Splotting, anch'essi non mancano di produttività e di vivacità dentro l'ambiente sonoro, e anche Matty Bauer, non più come Total, ma dentro il noise che si sviluppa sia in termini americani dal neo-noise, sia da quel tremendismo sonoro di Ramle, che ancora produce, insomma, semi cattivi, quindi tutti personaggi che sono piuttosto attivi, anche se siamo partiti, insomma, dalla metà degli anni 90 e nella scorsa trasmissione addirittura degli anni 80, arriviamo di fatto, insomma, agli anni zero, con una continuità anche di attitudine stupefacente, appunto, come senso vitale. Poi capisco anche qua l'antinomia che creo, però di fatto è così, quindi un suono che è assolutamente, insomma, dentro i nostri giorni, anzi crea un futuro possibile, e di fatto, insomma, a chiusura di questo 451 creeremo, insomma, senza neanche poi forse crearlo, ma continuando, ecco, questo percorso. Andiamo a prenderci, appunto, passando dal 2003 di Paul Schulze live, quello del 2007 di Kevin Drum e Prurient, senza dire altro, ma tuffandoci in questo incredibile incubo sonoro, anche incredibile per potere seduttivo. questions of interpretation. Indeed. It would be impossible to approach such questions. Ascoltati questi splendidi Helm in senza soluzione di continuità, come avevo accennato prima, rispetto alle Death Ambient che stiamo trattando in questi due 451 frammenti sonori, il precedente del mercoledì scorso e questo qua appunto di questo mercoledì, a cavallo, anzi direi proprio entrati dentro il 27 di novembre, quindi climi anche piuttosto autunnali, se non proprio invernali. E tra l'altro appunto anche nella scorsa trasmissione abbiamo trattato faccende piuttosto gelide, se ricordiamo insomma Thomas Koerner con il suo Polar Region insieme a McKenzie degli Affair Trio. Questa sera Helm riporta una sorta di astrazione incredibile, questi climi sì polari, però ecco, di un polo forse anche in tempesta, di un gelido che va quasi a toccare il punto estremo di calore, ma appena si tocca una superficie ghiacciata si ha la sensazione del calore, come appunto quando si prende in mano la neve, no? Tutti abbiamo provato una sensazione del genere perlomeno una volta nella nostra vita. E in effetti queste musiche, soprattutto quelle di Helm, ricordano questi momenti, insomma, di una sensazione che passa da uno stato all'altro, quasi quasi magicamente, alchimicamente. Helm da qualche anno fanno uscire nella loro base astratta, ma fisica, comunque londinese, nel senso che lavorano appunto nella città, ma forse hanno tra la testa insomma vecchie faccende isolazioniste, vecchie faccende industrial ambient, e soprattutto quel suono azzerato, azzerante, già di certa dubstep in nuce, e dentro insomma le ritmicità create dal dubstep. Sicuramente c'è questo drone di sottofondo che Helm riescono a fare emergere, non perdendo di vista quella rhythm and noise, quella capacità creare delle ritmicità su lavorando insomma sul noise, sul rumore battuto. E Helm con il loro Hollow Organ, un ottimissimo lavoro edito tra l'altro dalla emerita Pan, che sta facendo veramente lavori grossi legati a non soltanto alle ambientazioni death, come le abbiamo chiamate questa sera, ma anche su un lavoro insomma noise, glitch e quelle sperimentazioni anche extra musicali, se vogliamo, legate appunto a installazioni, a musiche installative, che quindi di fatto creano un ambiente esterno oltre a quello insomma discograficamente trattato e registrato. Helm si rifanno anche per molti versi a un altro grande astrattista sonoro, anche egli dentro meandri assolutamente scuri, con però quel senso insomma creativo che rende le musiche di Daniel Menke tra le musiche più visionarie degli ultimi vent'anni, partito insomma anche egli con riferimenti chiari a certo Lastmord, per poi evolverli con collaborazioni anche paragezzistiche. Ecco, stasera sembra quasi assurdo di tante citazioni nel jazz, ma poi in realtà sono veramente tanti i jazzisti che hanno preso le mosse da queste musiche o l'hanno addirittura create, appunto prima Fred Frith con il suo Death Ambient, ma lo stesso Paul Schulze dopo l'esperimento insomma industrial dei Lovenants passò insomma per buona parte, e poi l'ha ritrovata anche nel proseguo della carriera, quell'impro radicale legata tanto al concretismo come al trattamento insomma ambientale paragezzistico del suono. E Daniel Menke lo andiamo a prendere dal suo ultimo lavoro, che anche egli come dire con una felice continuità riesce ancora a creare e ricreare queste ambientazioni assolutamente insomma altre e diverse. Daniel Menke da questo matrimonio metallico, come sentirete, con atmosfere molto anch'esse seducenti, perdonatemi insomma un termine che mi sta sfuggendo da qualche trasmissione, ma di fatto perlomeno il sottoscritto è decisamente preso da queste appunto atmosfere, quindi come non tuffarsi a pieno. Daniel Menke dal suo Marajo Metals. Beh, in effetti proprio di un matrimonio si potrebbe trattare, però appunto di metallurgie che comunque vengono controllate, e questo lo riesce a fare da sempre, dal 91, dal primo album di Daniel Menke, in maniera veramente quasi chirurgica. Daniel Menke trova sempre un modo per incanalare un suono che potrebbe esplodere da un momento all'altro, e quasi con un'arte zen. Capisco che qua può sembrare assurdo, ma forse è già di per sé assurdo lo zen, forse ci interessa anche per questo, come interessava a Cage, tra l'altro anche con composizioni che si basavano insomma su quello che è un non metodo, appunto legato allo zen, un paradosso. E paradossalmente appunto Menke riesce a lavorare con suoni incredibilmente brutali, ma appunto trattenendoli e creando sempre quel punto quasi di rottura che di fatto poi non si rompe mai. Questo forse è una delle grandi capacità dell'americano nel trattare il noise e appunto nel creare e ricreare appunto nel corso delle varie sperimentazioni dei suoi anni di carriera, e queste ambientazioni perverse, cattive, ma mai appunto tanto da rompersi, sempre su un filo incredibile, appunto in questo senso anche una grande capacità astratta, un espressionismo astratto potremmo definirlo, quello di Daniel Menke. E per finire, per chiudere un cerchio, per far quadrare il cerchio, torniamo su un suono che è nato come isolazionista. Stiamo parlando di Maine, Robert Hampton e Scott Dawson, dopo la storica formazione dei Loop, insieme ai Spaceman Trio, uno dei momenti della rinascita psichedelica, con sonorità che però andavano, come proprio tra l'altro l'altra storica formazione, appunto gli Spaceman 3, a toccare anche momenti di noise, di reiterazione, e quasi a voler fare entrare in maniera anche piuttosto violenta quelle che era un suono massimalista preso tanto da a certo John Cale del primo periodo, e da altri massimalisti come Grant Branca, Rhys Chatham, Tony Conrad, e farlo appunto esplodere in un suono di incredibile portata per quello che fu insomma un rock che si stava chiaramente insomma trasformando, con una grande anche esplosione tutti quei post rock, e anche forse dentro un suono isolazionista che andava a far implodere tutta quella materia. E Maine, appunto, partendo da forse l'ultimo disco dei Loop, che già aveva queste seminazioni dentro appunto un ambient di nuova fattura, e creerà insieme appunto prima abbiamo preso Total, che non Jazz Plotkin, ma se ne possono citare vari che non sono passati questa sera, ma sono stati già trattati o verranno trattati da 451, Disco Inferno ad esempio, un altro progetto che mi viene in mente, Illusion of Safety, tra l'altro, dove c'era dentro Jim O'Rourke, a proposito di tanti post, ma potremmo veramente citarne tanti di questi ammorbati e seducenti, però nello stesso momento autori di musiche altre. e Maine tra l'altro arriveranno fino al 96 appunto con i due storici membri dei Loop, e poi Maine si trasformerà nel corso degli anni con la collaborazione di Robert Hampton e Stefan Mathieu, più vicino a quella sostanza musicale glitch, agli errori quindi sonori digitali trattati e ritrattati, manipolati, arrivando anche a nuovi lidi musicali. Senz'altro questo Ablation del 2013 è tratto tra l'altro dall'Amego, quindi etichetta che oramai si è fatta assolutamente classica dentro questo suono, anche qua un ossimoro voluto dal sottoscritto, che vi saluta e vi rimanda mercoledì prossimo e anche a lunedì con 451 intersezioni con Eliseo Scarpa, ovviamente vi mando anche così il link del blog, del non blogs, anzi, perché 451 frammenti sonori .noblogs.org, per appunto ascoltare le varie trasmissioni insomma degli ultimi anni, e anche questo insomma prima o poi la metteremo. Max Macchia vi saluta, vi rimanda appunto ai prossimi appuntamenti generali di 451 e anche quello appunto di frammenti sonori il prossimo mercoledì. Ciao Maine, anche stavolta non ve lo dico, non dicendo ve lo dico, fate i bravi, ciao.